Andrea takes control of the situation and orders for everybody. Ordino io per tutti. In that sentence, he used the pronoun I. Although you've been hearing the pronouns in the verb boxes up to now, and by the way, you won't hear them again from this point on, people don't normally use pronouns in Italian. If someone does use a pronoun, it's usually before the verb. For example, Io ordino. However, when Andrea used the pronoun just now, he put it after the verb to emphasize the fact that he's the one taking control and performing the action. Ordino io. Ordino io per tutti. Andiamo avanti. Let's carry on. Queste sono le parole nuove. Ripeta ogni parola dopo la seconda volta. Mentre. While. Mentre. Aspettiamo. We wait. Aspettiamo. Crostini toscani. Tuscan canapes. Crostini toscani. Scelta. Choice. Scelta. La mucca pazza. Mad cow disease. La mucca pazza. Non si preoccupi. Don't worry. Formal. Non si preoccupi. L'unico. The only. L'unico. Pazzo. Madman. Pazzo. Ed ora il nuovo vocabolario ancora una volta. Mentre. Non si preoccupi. Aspettiamo. La mucca pazza. Crostini toscani. Pazzo. Scelta. L'unico.